sorge il sole, la mia voglia di andare via, cantare con parole nuove, la mia gioia o malinconia, scoprire emozioni nuove tra gente che non mi vede, capire come si muove, ascoltarmi e se poi mi crede. Io canto senza gridare le note su di una via, non sono qui per disturbare, solo voglia di far poesia, capire se nei miei versi ritrovo le mie stagioni, rivivere i miei giorni persi, scoprire nuove emozioni. Ancora per sentirmi vivo, ho voglia che tanta gente ascolti ora la poesia. Forse un momento in più, capire se senti adesso la mia vita in questa storia che poi va con voi, che poi va con voi. Ancora